Il secolo che abbiamo alle spalle è il secolo XX. Un secolo di sangue, di morte, di sudore, di lacrime, di dolore. C'è stata la prima guerra mondiale, qualche milione di morti in una cazzata. Prima c'era stata la guerra di Libia e poi la guerra civile spagnola, 3 anni, dove gli uomini si sono ammazzati come delle bestie feroci. La guerra d'Africa e finalmente la seconda guerra mondiale. 50 milioni di morti, 20 milioni solo in Russia, 6 milioni di ebrei, l'olocausto. Hiroshima, 140.000 morti quella mattina, 90.000 morti da Nagasaki. Il giorno che sono sbarcati gli alleati, gli americani in Normandia, il D-Day, salvate il soldato Ryan, 3.000 morti là sulla spiaggia. Io conoscete sono un ex colonnello del genio. Sono un genio, mi chiamo Eugenio. Sono a riposo, ma io non mi riposo mai, io cogito, ergo subito. E l'altra notte ho pensato, mi è venuta un'idea geniale che farà di me uno degli uomini più famosi dopo Einstein. Mi daranno il premio Nobel per la pace, andrò alle Nazioni Unite a esporre il mio piano. Una stronzata, un uomo di Colombo. Basta con questa guerra, dove mandiamo a ammazzare questi giovani a 18-20 anni per arricchire qualche petroliere o qualche banchiere internazionale. D'ora in poi le guerre saranno fatte dai vecchi, quanti anni hai? 70 anni, sono coreani. Questi vecchi che voi abbandonate nei giardini pubblici per andarvene in giro per il mondo d'estate assieme a cani, gatti e altri animali, d'ora in poi un carcere al culo tutti in caserma. Le vecchie, le mettiamo tutte nella croce rossa, ce ne davamo dei coglioni, va a parte, vai, sì, le vecchie qui nella croce rossa, sparano fuori la croce rossa, non c'è frega a casa. Siamo le morte, andiamo alla guerra dei vecchi, e le morte delle risorse, andremo negli ospedali, negli ospedali, tutti i malati, sterminare tutti i kamikaze, ma io sto male, ma c'è la guerra, ma le vecchie, ma le vecchie, ma le Morire, è meglio morire con un colpo in testa, con una palla in testa, che morire senza male dentro l'ospedale lì, intubato come un serpente dopo mezzo. Il signor Marinetti, il futurista, diceva le guerre sono l'igiene dell'umanità, la brutta frase non mi è mai piaciuta, ma forse in questo caso potrebbe anche funzionare. E io sono un assistente del professor Forminoni, l'ho visto qualcuno? Io no, il signore vestito di grigio un po' calvo. Non è che l'avete visto in giro, si conosce subito, sempre una cravatta azzurra a pallini bianchi, non l'avete visto. Perché sono un suo amico, in realtà io sono canadese, mi chiamo Mark Payat, c'ho mia sorella qui da qualche parte, Marcy. Marcy, dove sei? Marcy è timida? Ciao Marcy, my sister. Noi siamo... Anch'io mi occupo di education, di formazione. Sarei un collega e mi ha detto, il professor Formiconi ha detto, vieni, arrivo un po' tardi, intrattieni gli studenti, però non mi ha detto niente. E io ho avuto molta paura perché parlando con lui e vedendo un pochino come funziona la formazione qui in Italia, ho visto che è un sistema molto strano, sono pazzi qui in Italia, non funziona più. Noi siamo molto avanzati in Canada, una delle nazioni, cioè grandi, facciamo grandi investimenti, ora non per essere nazionalista, però in Canada c'è una ricerca avanzatissima nella formazione, e capisco che non si sia tutti allo stesso livello, però qui in Italia ovviamente sono rimasto basito. Però non guardate che parlo abbastanza fluentemente di italiano, perché ho vissuto molto in Italia e quindi insomma, parlo quasi perfettamente. Invece mia sorella no, ha grosse difficoltà perché è poco che è venuta. Marzi, ciao. Marzi ha ricevuto un applauso, cioè 5 minuti che seguiva ha già ricevuto un applauso. Allora, quindi il mio problema, e allora io ho pensato, mettiamo un pezzo aspettando, il famoso quarto d'ora accademico italiano, riempiamolo di qualche cosa. E mi piace questo pezzo dove si dice mandiamo i vecchi alla guerra, perché in realtà richiama la rivoluzione che c'è nel mondo sulla formazione. E qui non le persone non lo sanno, però devo dire solo in Canada noi cominciamo a avere un pochino questa idea, perché c'è una rivoluzione che sta calando sul mondo attraverso internet e che la gente non lo capisce, non se ne accorge, e questa è una cosa che ci sta travolgendo, si sta rovesciando il mondo, e Remotti, anche se ha 80 anni, ha capito perfettamente, ma andiamo ai vecchi, certamente la guerra, fare la guerra è un risparmio. E allora, e poi le guerre, come dice lui, non avete sentito bene, ma sarebbero molto più bonari, insomma, quello non ci vede, l'altro è quello più piccolo, insomma, gli attacchi sono molto, alla fine diventa un po' la scampagnata, sarebbe bello, e vale la pena sentirlo, cercare in internet a trovare su, è tutto disponibile. E allora la formazione va incontro a una rivoluzione, cioè i ruoli si stanno rovesciando. Perché voi credete di essere qui a imparare, ora vedremo il professore che dice, se non viene io fo il mio, fo dico quello che posso dire io, d'altronde la mia cultura canadese non la posso zerare. E allora si stanno rovesciando i ruoli, nel senso che voi credete di essere a imparare e credete che io debba insegnarvi qualcosa, ma non è così. È che voi, il vostro nuovo ruolo è quello di insegnare, va bene? E il mio, quello di professore, e il nostro ruolo di professore è quello di apprendere, si sta stravolgendo tutto. E questo ancora non si è capito, ma succede in tutti i settori. Nella Wikinomics, l'economia della condivisione, ma dire non sto facendo un discorso da rivoluzionario, questa è una cosa, è una visione che hanno abbracciato la IBM, la Procter & Gamble, la Goldcorp, le multinazionali, esiste il prosumer, il cliente non è più una cosa che si strizza come il dedo che qui si fa in Italia, va bene? Ma è uno che oltre ad essere un consumer è anche un producer, e le aziende più avanzate nel mondo, le organizzazioni più avanzate nel mondo, le università più avanzate nel mondo stanno aderendo, stanno capendo questo, che i cosiddetti clienti, studenti, sono in realtà anche persone che producono. La conoscenza in particolare non è più una cosa che viene solo da una quantità limitata di fonti autorevoli. C'è una ridiscussione in tutto il mondo del concetto di autorità. La conoscenza è una cosa che è diventata liquida, pervasiva, e l'autorità è un qualcosa che viene negoziato in continuazione in base a quanto la conoscenza prodotta risulta effettivamente concreta e affidabile. Allora, siccome vedo che il professore tarda, anche questa è una cosa che ho sentito, sono cose che succedono qui in Italia, in Canada, dopo due volte non li hanno buttati fuori, non si scherza, cioè qui io anche ho la nipote di un mio amico che ha appunto fatto una lezione in un corso di laurea molto lontano da questo, ma so di tanti altri casi, 200 persone, il professore non arriva, tutti vanno a casa con la coda fra le gambe, e queste sono cose che succedono, è una cosa incredibile che da voi possa funzionare così. E allora piuttosto vi faccio la mia lezione con il metodo canadese. Meno male che ho tradotto il sito, e quindi è come se fosse per voi. Io ho tradotto i siti internet che usiamo. Allora, facciamo finta che sia così. Poi il professor Formiconi cambierà tutto quando verrà la prossima volta. Domani alle 10:30, c'è la continuazione. la farà lui, speriamo che non siate troppo sconvolti da questo cambiamento. Allora, come funziona il corso? Così avete un pezzettino di Advanced Education. Allora, funziona così, che voi appunto non siete più passivi, siete prosumers, siete, ma no, trattandosi di formazione siete molto di più, siete coloro che forgiano il loro percorso formativo, siete coloro che apprendono, è colui che apprende che conduce il gioco, non colui che insegna. Questa è una visione ottocentesca che purtroppo in tanti paesi permane ed è uno dei più grossi problemi della formazione dell'economia. C'è una discussione in tutto il mondo molto serrata su questo e tanta sperimentazione. Allora, voi avete il coltello dalla parte del manico. Cioè, questo corso, chiamiamolo così perché sennò poi non abbiamo il vocabolo, perché ancora qui dobbiamo inventare, ma questo corso ve lo gestite voi. Io, il prof, spero che accetti questa visione, è a disposizione, si dice noi in Canada facilitator, è un facilitatore del vostro apprendimento, a disposizione quando per voi, quando avete bisogno. Ma voi dovete forgiare il vostro apprendimento e più che sia possibile lo dovete fare cooperando, perché il mondo del lavoro oggigiorno, specialmente in certi posti particolari come gli ospedali, ha bisogno di cooperazione, di capacità di lavorare insieme. Ma anche se non fate una cosa così umanamente elevata come occuparsi dei problemi degli altri, in qualsiasi azienda del mondo non vi chiedono le vostre competenze, le guardano dopo. Prima vi chiedono come vi sapete relazionare nel gruppo, sapete lavorare insieme, questo vi chiedono. Allora qui voi lavorate insieme, più che sia possibile. Avete un sacco di scelte, avete un sacco di scelte. Voi vi direte, ma perché deve essere venuta fuori una cosa così diversa? E quanto diversa lo state per vedere? Allora, vi dico due o tre cose molto semplici. Dunque, voi siete qui dentro, siccome avete riempito le seggiole, dovreste essere 230, 220 circa, no? Bene, siete un bel campione di popolo, eh? Fra di voi ci sono anche i libri strani, i libri meno strani, eh? Maschi, femmine, di tutto. E fra di voi ci sono alcuni che di computer ne sanno da far paura al professor Formiconi. Qualcuno di voi può essere che a 14 anni avesse già cominciato a installare Linux anche nel frigorifero. Di tutto, va bene? Però fra di voi c'è anche qualcuno di sicuro che pensa ancora che fra tutti questi tasti, oi oi, ma perché tutti questi tasti ci hanno fatto su questa macchinaccia? E ce n'è uno, sono questi simbolini strani, la freccia che va in là, il tasto di autodistruzione, mi si cancella. Butto via tutto quello che c'è dentro al computer e a casa, i genitori che purtroppo in questo paese imperversano lo sesso su questa generazione, e hai buttato via i soldi, hai rotto il computer, quindi io so che fra di voi ci sono anche queste persone. Bene, allora mettetevi un attimino nei panni del povero professor Formiconi, ma come fa a fare lezioni? 7-8 lezioni, perché non si può mica fare tanti crediti a medicina. Come fa un cristiano così, con la sola parola, anche poi scarsamente padroneggiata, a contentare una popolazione così diversa? È possibile secondo voi? Io ci ho pensato parecchio, ma non penso che sia possibile. Non so se il professor Formiconi ci ha pensato abbastanza. Allora, c'è un altro problema, che oggi stimano gli operatori del settore, saranno antropologi, futurologi, sociologi, o di questa gente qui, e stimano che oggigiorno si produce nuova informazione ad un ritmo per cui questa raddoppia ogni 2 anni. in particolare informazione tecnica, certamente, forse anche a un ritmo più veloce, mediamente. Questo che significa? Che se io le insegno una cosa, allora impariamo a fare stampa unione dentro Word, cioè magari fra 2 anni questo non esiste più Word. Perché sta cambiando tutto troppo rapidamente. Come si fa a insegnare qualche cosa in queste condizioni? C'è la generazione mia, io sono nato nel 55, voi dovete un attimino per darvi un'idea palpabile, perché si capiscono a questo mondo solo le cose palpabili, non i libri di testo. Allora, quando io ero piccino, pensate a me, riducetemi, miglioratemi perché ora mi troviaio, piccino a 10 anni, quando uscivo da casa, c'erano i campi a Contassieve, va bene, ero in vacanze da e c'era il contadino con le vacche, arava il campo. Quando noi siamo cresciuti, i contadini in Italia aravano il campo con le vacche, e con le madonne di un tipo le vacche andavano a destra, e i dì di un tipo andavano a sinistra. Così sono cresciuto io. Allora, quindi ora invece sono qui col vestitino di informatico educatore, e sto parlando di tecnologia. Chiaro che c'è stata una transizione, Bene, allora prendiamo mio padre, laureato in medicina, guarda che caso, nel 53. Per lui era con quella generazione, quindi la generazione dei vostri nonni, gente nata negli anni 20, 30, 40, era semplice, perché l'istruzione era un percorso, si arrivava ad un punto dove la laurea, lì aveva senso festeggiarla, ora no, non è festeggiata. Lì aveva senso festeggiarla, perché non era del tutto vero, molto meno di quello che si pensa, ma ci sarà tempo per rivedere questo. Però uno aveva acquisito gli strumenti e il nuovo mediconsolo, con lo stetoscopio in una tasca e il martelletto dall'altra, entrava negli ospedali, nelle case, e curava la gente. Doveva a quel punto lavorare usando gli strumenti acquisiti durante l'istruzione in paradigma. Per questo era possibile concepire una follia totale come l'esame di maturità, un qualcosa che può essere solo concepito da una cultura che ancora non è matura, va bene? Oggi è completamente diverso, perché qualsiasi lavoro voi facciate, quando usate degli strumenti, questi in larghissima parte, quando avete studiato, non c'erano, non esistevano semplicemente. Infatti sono comparsi dei paroloni, purtroppo in Italia solo paroloni, ma pochissimi fatti, il lifelong learning, impara tutta la vita. La formazione, l'aggiornamento professionale continuativo, che dà un'idea a uno, è proprio, invece non succede assolutamente nulla, perché c'è bisogno di questo, c'è l'esigenza, noi in Italia arrivano a capirla ma non riescono a mettere in atto, se non c'è verso. Allora il problema è un paradigma completamente diverso, perché oggi in realtà è difficilissimo dare gli strumenti. Infatti questo concetto di passaggio di conoscenza è un concetto che in chi si occupa di formazione non esiste, perché non è così, ma chi si occupa di ricerca, di neurofisiologia, neurobiologia, scienze cognitive, eccetera, sta cominciando a avere chiaro che non esiste questo concetto di passaggio di formazione. Esiste il concetto di apprendimento, di crescita, di trasformazione. L'apprendimento è un'autotrasformazione e non può essere facilitato, non può essere imposto con un qualcuno che ti spiega le cose dall'alto. Adesso è una cosa che deve essere vissuta. Chissà che cosa inventerà il mondo per affrontare queste cose che cominciano ad essere abbastanza chiare. Allora, come vedete, insegnare in queste condizioni è perdente. Il professore deve fare lezione a tutta questa quantità di persone che hanno competenze di base così diverse, e le cose ci stanno cambiando sotto il naso. Io vi dico qual è la velocità della DSL, tra 6 mesi tocca cambiarla. Vabbè, perché è una sciocchezza, vi dico che oggi i blog sono importanti, magari fra 3 anni sono spariti e c'è un'altra cosa, c'è Google, chi lo sa, e che cambia in continuazione. E allora la missione dell'educazione, dell'educatore, del formatore è quella di insegnare ad apprendere, a essere autonomi, è questa la chiave di volta, è così che va riletto tutto il processo. Bene, questo preambolo serve a giustificare in pratica le opzioni che vi vengono offerte, che vi dovrebbero essere offerte. Allora, le opzioni sono 3. Dunque, su questa grande quantità, qui in questo corso sono stati osservati 6.000, mi sembra, studenti da 2001, le statistiche sono chiare, c'è tra di voi lo zoccolo duro, io lo so, di quelli che il manuale lo vogliono, le istruzioni lo vogliono, vogliono sapere che devo fare, che devo erogare, in che momento e come la vuole sentire lui. E ho capito che lottare con lo zoccolo duro è stupido, è come diventa un'operazione don chisciottesca, e lo zoccolo duro va rispettato perché ha le sue ragioni, e allora c'è l'opzione per lo zoccolo duro. L'opzione è, ci sono le dispense, comunque in questo corso non si compra nulla, è tutto disponibile in un sito che poi vi dico, non vi faccio vedere niente perché ho capito che perde tempo per far vedere voi che aspettate mentre io clicco, non dice niente, prima dirla andate a casa, cliccate voi meglio di me. Allora, ci sono le dispense, i contenuti famosi, i contenuti non sono più il centro dell'apprendimento, l'apprendimento non ha a che vedere con i contenuti cambiano in continuazione, si evolvono, vengono visti in contesti diversi, sotto prospettive diverse, conta il sapere affrontare le novità, il capire i contesti, l'essere flessibili nell'apprendere le nuove procedure che siete costretti comunque ad affrontare. Allora, comunque i contenuti ci sono. E ci sono anche dei test di autovalutazione. Se uno vuole fare l'esercizietto, vediamo se la so, prova a rispondere alle domande e il computerino glielo dice da sé, hai toppato oppure bravo, bravo, bravo, bene? Quindi lo potete usare. Dopodiché venite a fare un quiz, che è l'esame più cretino che sia stato concepito al mondo. D'altronde, nella massificazione è chiaro che non ne possiamo fare non possiamo dire che è accidenti al mondo che ha massificato l'università. Vabbè, e che facciamo? Torniamo indietro. L'opportunità di crescere deve essere data a tutti. Dobbiamo trovare i sistemi perché questa cosa funzioni, va bene? Quindi c'è poco da fare, che se si fanno esami convenzionali, che volete fare? Se uno ha 700 studenti l'anno, come il poverissimo professor Formiconi, che volete? Che faccia un esame orale a 700 persone? Lui fece qualche conto e scoprì che passava 2 mesi a interrogare gente, non ne poteva venire una volta civile fuori. E quindi ecco i quiz, c'è un sistemino online e venite a fare quiz. Però in questo corso è stato abolito il concetto di appello, perché voi di appelli, paletti, regole, regolette ne avete anche troppi. E per una stupidata come un corsettino di informatica è veramente idiota aggiungere un altro. Quindi il professore sarà disponibile nell'aula in tutti gli orari che voi avete sul vostro orario informatica, martedì, mercoledì, giovedì 10:30, 12:30. Il prof è lì che fa i cavoli suoi, lavora, perché oggi si lavora anche nell'ATA, facoltà, si lavora ovunque, non c'è questo concetto, anche con l'iPhone si gestiscono le cose. La macchina è una sola, è quella là fuori, internet, e i punti di accesso sono ubiquitari, i liquidi li abbiamo in tasca, li avremo poi incastrati nei vestiti fra poco, e quindi si lavora ovunque. Comunque il prof è nell'aula disponibile e voi se avete un problema andate lì. Ci sono dei computer, sono computer universitari e purtroppo ragazzi, se volete possiamo trovare all'internet point che funziona meglio, oppure andate a casa del prof, che vi devo dire, ma c'è poco posto, perché le aule istituzionali non funzionano, perché per sicurezza ci sono tutti questi virus, ci sono i pedofili, tutta la pornografia, sono le chiuse ragazzi, sennò l'apprendimento ne viene danneggiato fortemente, quindi sono chiuse, non si può praticamente fare nulla. Però insomma magari qualche cosa di semplice uno lo fa. Comunque il prof in italiano parla, è disponibile. Il prof è disponibile a fare anche lezioni, seminari, questo dipende da voi, se non ce n'è bisogno non si fanno, studiate da voi, è meglio, non risparmio per tutti. e quando il prof è lì si possono fare gli esami quiz. Uno entra dentro e non c'è più il concetto di appello, l'esame è come un caffè. Sai che faccio? Prendo un caffè e poi vado a fare l'esame di informatica. Entri dentro, zac, e se c'è il prof dice sì, guarda il computer, scegli quello che vuoi, attento la prendi una frescata e tu fai l'esame di informatica. Viene fuori il numerino, il prof ha dei bollini, ve l'attacca in fronte e voi andate felici, ruzzanti, a affrontare il prossimo. Questo è possibile, questo è per lo zoccolo duro. Poi c'è il secondo modo, che è il modo principale dei due modi alternativi, principale come quantità di gente che lo seguono, è il modo dove voi dovete pensare che il prof è un pastorello che gira, esperto di un bosco, e gira, il bosco è il mondo del web 2.2, e vi conduce per mano con un piffero, vi richiama ogni tanto, voi poi esplorate tranquillamente, e se fischiate nel vostro piffero in un certo modo lui vi risponde, diciamo quasi sempre, perché comincia sempre vecchiotto, ci sente un po', si sta disturbendo. E allora voi seguite questo percorso. Come funziona il percorso? Dovete prendere un quaderno, è alla vecchia maniera. Il PowerPoint lo lasciamo nelle baraccopoli di Nairobi, perché l'uso che si fa di PowerPoint è di quel livello. Il televisore nella baracca di chi sta morendo di fame o c'ha altri problemi, il televisore c'è. Ecco, l'uso di PowerPoint nell'università italiana è praticamente simile. È un pacco, si dice in Napoli. Sembra tecnologia avanzata, invece è un pacco. Va bene? Allora, voi invece vi procurate un quaderno. Però il quaderno è un po' cambiato, ma è un quaderno. Che si fa col quaderno a scuola? Ci si fanno gli esercizi, dice il prof. Se uno è poetico estroso, spesso le fanciulle di più, ci disegnano farfallina colorata e poi c'è tutte queste scrittine, ma che uno lo usa come vuole, ci mette una barzelletta, una fotografia un po' in zazzà, e poi ci mette gli esercizi, va bene? E poi dopo che si fa dopo la fine del corso? Il quaderno normalmente una persona sana di mente lo butta via, se c'è qualche distorsione psicologica lo tiene, lo conserva per benino, sperando dopo 10 anni di guardarlo con commozione, addirittura perversamente mostrarlo ai propri figli. succede, sapete quello di... Oppure tipi più programmatici possono dire, oh beh, sai che io ho da fare l'inventario di quanto spendo tutti i giorni, perché c'è la crisi, non si arriva un conto al mese, lo butto via il resto, trappo le pagine, lo lascio lì, lo continuo, ci può un'altra cosa. Quaderni si usano così normali. Invece del quaderno però a noi ci torna più comodo usare un blog. Di voi, chi vuol seguire questo modo, deve fare un blog. Il blog qualcuno di voi ce l'ha, io lo so, non se l'è che facciate tutti attorno a me, no, ce l'avete. Secondo me ce l'avete, io il 20-30% di voi ce l'hanno il blog. Oppure ce l'avevano, poi l'hanno mollato perché hanno detto il mio io in piazza non ho più, vabbè, comunque chi ce l'ha lo può continuare a usare, frega niente. Chi non ce l'ha se lo fa. Chi ce l'ha ne vuol fare un altro, può fare un altro. Che potete fare nel blog? Questo è un corso dove non ci sono regole, c'è una sola regola: quando voi scrivete le cose, perché sono pubbliche, si deve rispettare il prossimo. Quindi se io sono un sinistrone e parlo con un destrone, io ci posso discutere e rispetto la sua idea, anzi mi domando, ma forse a volte ce la facciamo anche lui. E se sono un destrone e parlo con un sinistrone, io lo ascolto e dico, ma ora proprio non potrà essere sempre scemo il 100% del tempo, forse anche quizzo ce l'ha, non vorrei mi sfuggisse, sarei allora più scemo io. Ecco, allora rispettare il prossimo e gli opinioni del prossimo. Altre regole non c'è. Avete la fissazione dell'heavy metal o qualcosa del genere? C'era già un pazzo scatenato che ha resistito fra il secondo anno lì, che piace il cenino, non so. Allora lo può fare di heavy metal. Oppure c'è un altro pazzo scatenato che sta a imparare il giapponese, vuol fare un primo giapponese, può farlo anche in giapponese. se ci avesse tutte e due fissazioni, perché vuole mandare sul psichiatra. E ci può fare quello che vuole, eh? Poi c'è qualcuno di voi di sicuro dice no, oh che orrore, io in piazza in mezzo a tutti, no, questo non potrò mai, non amo scrivere di me, le cose mie sono intime, mie, e io non le posso condividere con gli altri, ma chi ti ha detto che devi condividere le cose tue? Ma chi ti vuole sentire? Se tu ce le vuoi dire, dicele, si fa due risate, ma sta rilassato un attimo. Quando mai usando un quaderno di aritmetica all'elementare ti è venuto in mente no, no, no, il mio io lì no? Fai conto, voglio dire, e che utile è in mezzo. Lo potete usare anche così il blog. Quindi capite la libertà, che vuol dire chiaro concetto, eh? Si può essere estroversi e si può essere introversi. È uno strumento, si usa come si vuole. Si rispetta il prossimo, quello sempre. E poi che succede? Io sì, e quando ho aperto i blog, io ci scrivo. Che ho fatto? Sono stato ieri allo ai Tenax. Io so dire tante cose vengo. Mi diverto un pazzo. Però, voglio dire, si può mettere. Però, c'è anche il blog del professor Formiconi. Ormai lasciatemi dire che sono io, perché sennò mi confondo. Anche se sono Mark Pagliato. E allora c'ho il blog anch'io, eh? Il blog è la mia cattedra, è lì che io dico le cose. Per esempio, ora non c'è solo lo zoccolo duro, esiste anche un mostro che aleggia sulle nostre menti, che su tutte le nostre menti, specie qui in queste aule, di cui voi siete vittima. Dunque, siete 20 anni, vi siete sparati 5 anni di liceo, 8, 5, 13, poi in asilo, e una quindicina d'anni che siete preda delle grinfie di questo mostro, che si chiama scolarizzazione. Quindi, se vi si dicono le cose usando le parole, ma ragazzi, non vi offendete, perché io parlo così perché ho sofferto di questo e soffro ancora, va bene? Sto cercando di esorcizzare, diciamo. Sono con voi gli stessi problemi, eh? E non si penso più grossi, allora non più grossi, ma più grossi della media, allora io vi do i compiti, intanto qualcuno mi chiama così, o chiamiamoli così, insomma, ecco, sono, do dei compiti, cerco di creare un'atmosfera perché li viviate secondo me nel modo buono e poi voi li esprimete, cioè fate il compito, se volete, fate quello che poi volete. Quindi voi seguite questo ritmo, eh? Io accumulo i risultati perché grazie alle magnificenze, alle banali magnificenze del web, vedo cosa fate voi, vedo in quell'ambito, eh? E allora accumulo i vostri risultati. Quindi in questo percorso io vedo che la gente è come se avesse seminato in un vaso una manciata di erba medica, va bene, ogni tanto vedo tutte chi dopo, che non è mica che butto via le piantine che germogliano 3 giorni dopo, magari vengono più buone, cioè le figlio tutte, aspetto, piano piano crescono, io aspetto e vedo che voi piano piano producete e cresce questa cosa. Eh? Allora, naturalmente voi dovete imparare un po' di roba da voi, perché qui si impara da soli, si impara chiedendo, collaborando. Cioè, il percorso moralmente è corretto anche dal punto di vista dell'efficienza, è prima provo da solo, batto il capino, perché nel mondo, nella vita, si batte il capino sui problemi, è così. Ma non penserete mica che quando una volta ammesso nel concesso che otteniate questa benedetta laurea in medicina, non penserete mica che poi dopo voi non abbiate problemi. Guardate che il medico è un disgraziato in trincea che vive con un dado in tasca, eh? Cioè quando vi dà, ci sono delle malattie tremende dove quando vi do un farmaco, io so che ho il 60%, no, succede che io so che funziona il 20% dei casi e ve lo do, capito? Cioè non c'è la risposta esatta, non c'è il manuale, quindi cominciamo a liberarsi di questa cosa. Allora, voi dovete imparare, voi vi fate il blog, lo fate crescere come volete, dovete imparare a usare una cosa tecnicamente che si chiama feed RSS. Fra di voi ci saranno 20-30% di persone che lo sanno, quegli altri no, qualcuno dice olio, come può. Allora, ve lo dico in italiano. Allora pensate a me, che io ho 700 studenti l'anno, poi c'è gli amici, quelli mi interessano, quelli dove mi voglio divertire, io seguirò un 800 siti circa. Non penserete mica io la mattina li legga tutti, perché se no sarebbe nuovo questo, sarei sempre lì a leggere il 125esimo. Non può funzionare questa cosa. Il sistema del feed RSS, grazie a un servizio web gratis che c'è in giro per il mondo, mi consente ogni volta io mi collego di vedere quali dei siti che mi interessano sono cambiati dall'ultima volta che li ho letti. Tutto qui, banale. Voi imparate a usarlo, dopodiché potete mettere quello dei vostri amici. Il mio lo dovete mettere, perché se io scrivo un compito nuovo, voi lo dovete fare. E allora voi vedete, oh, il prof ha messo, accidente, lui ha messo un altro post, e allora un altro compito, vediamo cosa ha scritto quello scriteriato, eccetera, eccetera. Va bene? Dovete imparare a fare questo. Poi seguite, fate i compiti, e poi che succede? Allora, qui il voto è diverso, perché il voto è un concetto ottocentesco che, se l'umanità non si autodistrugge prima, scomparirà, perché non ha senso. Quello che io uso come voto, perché io so però in un'istituzione che mi obbliga a mettere il voto, perché sennò mi cacciano definitivamente fuori, e poi voi ne avete bisogno, quindi ve lo devo regalare. Allora, il voto è un punteggio che misura quanta attività avete fatto. Cioè, io cumulo le vostre attività, io premio tantissimo l'iniziativa personale, chi esce costruttivamente fuori dalle righe, i sovversivi positivi, quelli che ci provano per dare una mano a quegli altri, perché voi non siete qui per costruirvi una brillante carriera, voi siete qui per imparare a alleviare le sofferenze degli altri. Quindi dovete mettervi in testa e entrare in un modo dove automaticamente si dà una mano a quell'altro, perché se no sarete dei pessimi medici, anche se prendete 110 e lode in 6 anni. Cioè, spero che non ci arriviate se siete così. Bene? Allora, dunque, quindi io premio tantissimo questo. Non vi stressate. L'anno scorso i vostri compagni hanno prodotto 5.000 articoli, 3.000 commenti fra di essi, e hanno inventato una quantità di modi di darsi una mano che io da me non ci sarei mai potuto arrivare. Ecco perché io imparo, cioè non che per una cosa per dire, anzi, io imparo da voi, perché è vero questo, ed è vero per chiunque insegni per davvero qualche cosa. Bene, e come il punteggio? Vi dico, la dinamica è tale per cui per un 80% è un punteggio che mi viene automatico. Cioè, io cumulo, c'è un enorme foglionone Excel, lo vedrete, e Excel, tipo Excel, non è Excel, e quindi quando avete fatto un certo numero di cose non c'è versi, a 27 per esempio ci siete. Per me ho organizzato le cose in maniera da lasciarmi un 20% di discrezionalità mia, perché effettivamente a volte c'è qualcuno di voi che mi sorprende, qualcuno meno, ma ci sono, mi delude, e qualcuno che veramente mi fa dire Marina. Allora, io do ad ogni attività vostra un punteggio che poi normalizzo, mi cumulo a numeri e normalizzo alla fine, per cui di solito io uso teoricamente una scala di 5, e normalmente do 3, un contributo buono così 3, ma la maggioranza, forse l'80% becca 3. A volte però, quando leggo un vostro contributo, mi capita di dire boia, allora io do 4. A volte mi capita di dire, come ho detto prima, Marilma, guarda ragazzi, che roba, 5. A volte mi capita di dire, sì, ho capito, tu ci hai libertà, tu l'hai presa proprio, insomma, l'ha scritto un figo, vedi, la mia sangue, 2. Uno quasi mai. Ecco, e questo è architettato in maniera che mi viene un 20% di discrezionalità. Questo si cumula il voto. Viene, voi siete un magma vivente in crescita, quindi a un certo punto nel vostro insieme siete maturi e qualcuno comincia a scrivere in me, prof, a che punto sono? Ecco, allora io scrivo, tu sei a 27, 26, 28. E non è un bollino, non è che io vi ho detto, te tu sei nato da 27, e quindi tu potrai fare cose da 27, e tutti i miei successivi professori saranno influenzati da questo primo marchio che gli ho dato. No, è una misura di ciò che avete fatto. Per cui se voi dite so 27, secondo me è un voto decorosissimo, perché i voti contano pochissimo, a parte per qualche concorso, ma cioè nell'industria non mi frega niente dei voti, vogliono sapere se la gente si sbriglia nel problema. Attenzione. E, però diciamo che io la mamma io dico ho preso 30 perché sennò poi dopo lei dice perché tu fai la tassa. E allora lavora dell'altro, semplicemente. Ormai avrai capito il messaggio, avrai capito cosa piace al prof e tu vuoi fare le cose che piacciono al prof e allora falle qualcuna con te e continua e arriverai dove vorrai. È così che funziona un po'. Bene? Allora, proprio la procedura di iscrizione e i passi che dovrò praticamente fare ve li dico dopo. Ora vi accenno brevemente al terzo modo. Il terzo modo è concepito per coloro di voi che hanno delle tremendissime competenze tecniche. O pensate, poi vediamo se è vero, va bene? E qualcuno dice, ma poi che va a vedere le dispense, che io ignoro largamente, e dice, ma manca questo, prof, ma come si può ormai, eh? Benissimo, fai un contributo, fammi un pezzo di dispensa, discutiamo, così aiuti gli altri, te ti diverti perché sennò ti romperesti a fare un esamino scemo, che è scemo l'esamino, a quiz, e quindi ti becchi 30 perché hai fatto un contributo, va bene. Questo è uno dei modi. Però, attenzione, non mi entrate, qui recupero il mostro della scolarizzazione, non mi entrate nel modo ricerca, per piacere, e mi venite con il pezzettino confezionato in ricerchina a scuola. No, io voglio gente che veramente cerca di costruire, scrivere con la sua testa un pezzo per spiegare agli altri questa cosa che a lui piace tanto. Io voglio gente appassionata a questa cosa. Bene, no furbettini. In Italia c'è anche furbettini. Allora, io ho bisogno di queste persone qui. Ma in questo terzo modo c'è un'altra possibilità. Esiste un sistema che è un sito che si chiama http://www.medwiki.it. Questo è un servizio internet costruito da voi, dai vostri compagni gli anni scorsi. Il ruolo del prof è stato solo di ispirarlo. L'avete fatto voi, lo state gestendo voi, ed è oggi la principale fonte di materiale didattico. Domani io dedico l'ora a spiegare questa, ed è una lezione importante. Piglio frequenze e poi chi non ce la firma su loro. E spiegherò qual è la filosofia che c'è dietro, perché spiegando questo si spiega cos'è internet oggi, parecchio. E così sapete anche cos'è MedWiki, perché è un servizio, è una delle poche cose che funziona nella facoltà di fatto, dal punto di vista dell'utilità pratica. Sto parlando di siti web, cose del genere, quella è una cosa che la gente usa, bene? Alla quale potete contribuire. E, bene, lì c'è il gruppo dei vostri compagni di studi più anziani che ci stanno dentro, hanno bisogno di aiuto, ogni anno si cerca di rinnovare e io qui faccio la pubblicità per dire che chi è bravo col computer eccetera e vuole entrare in quel gruppo, questo è un modo per prendere 30, ma lavorando per davvero, veramente. Domani vi spiego meglio di che si tratta, bene? Ecco, questi sono i tre modi. Allora, non so cosa voglio fare, ma voglio mangiare. Allora, cosa si fa in pratica? Ah, l'ultima cosa che vi dico nel futuro, domani c'è lezione come oggi, eh? E poi, poi io dalle 10.30, ma in realtà tutte le mattine, perché lunedì e venerdì ci sono quelle odontoiatri, ma non è che se è il giorno delle odontoiatri e entra uno di medicina io mi tiro una sassata, cioè tutti quando io ci sono, qualsiasi studente, infermieristica, dietistica, fisioterapista, assistenza sanitaria, tutti, e possono venire, sono tutti uguali per me gli studenti, va bene? Perché sono uguali, eh? Non è che ci sono le categorie. Allora, io sono disponibile. Ci sarà un seminario in un giorno che ho dimenticato, perché venendo in Italia sono subito diventato un po' cialtrone e ho dimenticato la parte. Ma ad aprile, nei primi 15 giorni di aprile, poi ve lo scrivo, lo dico domani stesso, vi prometto. E ci sarà un seminario importante che servirà un pochino per chiudere il discorso, che servirà anche per definire completamente, magari lì si discuteranno anche i voti, queste cose, bene? E quindi sarà importante partecipare a quel seminario. Basta, poi non c'è altro. Il resto siete all'aperto. Quindi se qualcuno di voi ora sta per partire, va a fare un viaggio, eccetera, eccetera. E quest'anno ho istituito un servizio, la telecamera e l'audio, perché tutte le lezioni che faccio, a meno che non siano una classe di 7 studenti dove ci sono tutti, le registro tutte, video e audio, e le metto nel sito che ora vi dico, in un repositorio open source, libero, e voi le potete scaricare. Quindi gli insani di mente che vi vogliono sentire qualche cosa di quello che hanno già sentito o visto, lo possono fare, utilizzare, ma dite ai vostri amici che sono a fare la settimana bianca o altre amenità che non c'è bisogno di andare a chiedere ai propri che si deve fare un cervello, e c'è tutto, se la sente, è disponibile, grazie alla tecnologia che ormai ci è venuta incontro. Tutte le cose che io rivesto su di voi, le tecnologie, sono a costo zero. Ah no, c'ho un piccolo budget. L'anno scorso ho speso per 700 studenti $249. Questo è il budget che serve. Se qualcuno vi dice dobbiamo fare una cosa di tecnologia, cioè, ma mancano le risorse, eccetera, vi sta dicendo una bugia. O dice una bugia o non ha capito niente di quello che sta succedendo. Perché la tecnologia è calata su di noi, ce l'avete voi nelle tasche, ma a voi è facile dirlo perché la maggioranza di voi lo sa perfettamente, la sta usando per fare le cose della vita normale. Ci sarebbe fare un piccolo passettino, e si imparasse anche noi, se ne sarebbe tanto più facile. E ora vi spiego qualche caso pratico. Bene. Ma che è un microfonino? Ah, che fa un doppione. Allora, dunque, cosa dove, insomma, voi dite, sì, vabbè, questo boss si starà a vedere, ma lei, ma che succederà? Speriamo bene, poi ci sei trucco in fumo. Sono in peggio, poi pensi, sono in peggio. E allora, dunque, che si deve fare? Benissimo. Ci sono tre siti, questo corso usa tre siti, più internet. Cioè, se voi dovete andare a vedere la DSL, c'è nelle mie dispense, ma la DSL l'ho scritto la prima volta 3 anni fa, dove toccava un anno e mezzo fa, andare a vedere in Wikipedia e aggiornare la velocità, perché cambia in 2 mesi. Chiaro messaggio. Bene. Jesse? Sono 3 siti. Uno è il mio blog. La cattedra, da qualche parte lasciamo questa cattedra. Allora, http://. O IAMARF. Yamarf, che vuol dire? È che io, furia di stare sulla rete, entrando in contatto con una moltitudine di educatori, parecchi canadesi, questo è proprio vero, e in tutto il mondo e anche in Italia, educatori che vanno dalle maestre elementari fino a professori universitari, anzi maestre elementari fino a professori universitari, che è la giusta visione, ma a finire che mi sono ritrovato appioppato un logo che avevo inventato per divertimento, ma è diventato il mio: insegnare, apprendere e mutare, perché l'insegnamento in realtà va rivisto sotto la luce dell'apprendimento, e perché apprendere vuol dire trasformarsi, mutare. Yam, la gente mi ama a volte. Poi Yamar perché, per i casi della vita, essendo mezzo canadese italiano, e sono diventato Andreas Robert Formiconi. Yamar, questo è il motivo. Così sapete tutti il nome del sito. Poi Word, che in inglese vuol dire parola, attaccato Press, WordPress. Che cos'è WordPress? È un'azienda che offre un servizio di hosting, di mantenimento di blog per chiunque in modo gratuito. Sanno loro come poi col business collaterale della pubblicità viverci, siccome sono cose che fanno in centinaia di milioni di persone, si può fare il servizio gratis al cliente target. Internet è questo. Io ho un target, il target non deve pagare, perché così cosa mi dà? La massa cresce. Sulla massa innesto un business collaterale, col quale divento ricco. Ecco perché Google vi fa trovare tutto, WordPress vi fa e tanti tanti. Io uso solo roba così. Ho smesso di utilizzare le strutture dell'università, perché non funziona. Bene? Cioè mi fanno vivere all'età della pietra, e il mondo corre e io mi annoio. WordPress.com, perché un'azienda fa profitto di com. Bene, lì, questo è il mio blog. Troverete altrove, io scrivo tanti post perché ho diverse attività, ho diverse classi che si intrecciano, a volte le faccio intrecciare, a volte vi intreccio e vi mescolo insieme a altre classi, e poi scrivo post anche di altro tipo. Se volete potete selezionare usando la categoria a destra, una categoria, lo vedrete subito, i vostri. La sigla non la ricordo più, l'ho scritta, la riscriverò, forse studenti di medicina, cosa diciamo? Studenti folta medicina, non so. Potete selezionare solo i vostri. Questo è il blog. Poi c'è il blog, per chi non lo sapesse, è semplicemente un sito web che ha un autore o un gruppo di autori. Tutto qui. L'ultima cosa scritta è quella che appare più in alto, la gente può commentare le cose scritte dall'autore. Collegandole con i feed RSS, il blog è un potentissimo strumento di aggregazione di comunità nel mondo. Poi c'è il wiki del corso. I wiki sono siti che sono semplicemente dei siti dove ci scrivono comunità di persone, è scrittura collaborativa. Badate bene che la tecnologia porta il nuovo in potenza, ma non in immaginazione. La scrittura collettiva l'aveva brillantemente inventata e utilizzata da Milani negli anni 60, stiamo attenti. Questo è importante quando si valuta e si utilizza la tecnologia. La tecnologia aumenta le potenzialità, ma le idee sono state avute, sono emerse tanto prima in tanti contesti. No, non cacciamo sempre il nuovo là, io qui, bene, male. Queste sono visioni, sono le visioni di una società scolarizzata. Il mostro che crea categorie, separa le persone e distrugge l'immaginazione. Allora, l'altro sito è http://. INFO MEDFI, questo è quasi offensivo da quanto è banale. Informatica Medicina Firenze, Info MEDFI, per questo era nato così. Poi lo sto usando con tutta altra scienza della formazione, lo insegno anche, ma ormai vi lascio così, non sto a perdere tempo in particolare. Poi, questo è più difficile, P come potenza, B come Bologna, PB. W come Washington, Wiki, IKI. Questa è una società che gestisce pagine wiki gratis per la gente. E non si usa questa. .com perché è una società. Questo è wiki, quello è il blog. Qui ci sono le istruzioni, qui c'è l'iscrizione che ora io vi descrivo. E qui ci sono i contenuti se li volete usare, e qui potete arricchire contenuti perché il wiki lo si fa voi e io, e qui c'è per esempio nella prima pagina il mio calendario, cioè tra 8 quando ricevete, quando la posso trovare, ecco, basta ragazzi, il mondo, usiamo le cose che ci sono, andate sul wiki anche sull'iPhone o all'Internet Point o a casa della Carolina e della mia amica del cuore. Allora, e lì andate su questa pagina e c'è il mio calendario, che è un calendario gratis in Google e che ho sincronizzato, per cui io quando cambio una voce nel calendario in Google mi cambia la sua copia dentro al wiki e voi lo vedete. Quindi voi sapete dove è il troppo. Una volta tanto mi scappa anche, c'è scritto sono dal dentista, ma lì non venite. E quando io a giorno un appuntamento perché uno mi chiappa nel cellulare, dove cavolo l'hanno messo questo cellulare? E il cellulare, io cambio il calendario nel cellulare e automaticamente sincronizzato mi cambiano tutte queste cose. Quindi se stasera c'è una scocciatura, una riunione, facoltà, qualche parte, maremma e toppa una lezione domattina, io cambio sul cellulare e voi se stasera prima di andare dal prof a guardate e dice trovato il cellulare, ci vado a fare. Quindi grande fluidità, costo zero, più facile per me, più facile per voi. Queste sono cose che costa niente. Questo è da imparare, non imparare Word, che alla fine tutti sapete scrivere a testa, ma quasi, ma ci si mette un minuto. Uno che non sia totalmente decerebrato, in un minuto impara tutte queste cose. Ma invece sapere che si possono usare creativamente queste cose, farsele venire in mente, svegliarsi. Ecco. Allora, questo. Poi c'è un terzo sito che ho inventato a metà del semestre precedente, provo a dargli più dignità quest'anno, ma non sto a mettere, non bisogna mai fare le cose ridondanti, inutili, ve lo dico e basta, perché vi trovate l'indirizzo, siccome dovete andare lì. Allora è il daily, ho inventato, non l'ho inventato, siccome sono stato a scuola io in un corso in Canada, giusto appunto, nell'Università di Manitoba, prima semestre, ho fatto lo studente, in un corso sul connettivismo online, c'ho dei compagni di scuola, io in Nuova Zelanda, c'era l'islandese, come quello delle operette morali di Leopardi, non so se è proprio il suo discendente, c'è un corso bellissimo, lì ho imparato un sacco di cose, a fare il daily, ho imparato, ho visto fare a loro, lo dico con voi. E allora il daily è un bloggettino, anche quello l'ho fatto in WordPress, una disperata, quanto ci ho messo? 30 secondi, zero. Dove ci mettono una notizia al giorno? Sono gli highlight della blog class, sì, perché voi in realtà state entrando con questa chiacchierata nella blog class. In questa blog class, coloro di voi che scelgono, non lo so, voi state entrando nella blog class, e allora sono gli highlight della blog class. Se uno ha fatto un post particolarmente estroso, interessante, che sta andando nella direzione dove questa massa intelligente si sta muovendo, allora dico, guarda Bellino, dove sta andando lui, e poi così, e guardate. E se non c'ho altre cose, cito una notizia al giorno che ha qualche attinenza. Questo crea un po' continuum, si legge facilmente, notizione breve, con i link. Potete collaborare voi. Se qualcuno di voi si appassiona, c'è sempre quello che è un pochino giornalista dentro, e dice, prof, vai, chi l'ha scritto quello lì? Io dico, senti, guarda, scrivilo, gli do il permesso per diventare autore, potete collaborare al daily, diventa una specie di notizietto. Bene, queste sono le tre cose da seguire. Bene, allora, però ancora non ho detto, ma che si fa? Bene, allora ragazzi, siccome io ho una memoria ballerina e gli occhi che non vedono una mazza, questa è la stampa della pagina wiki, non perdo tempo a proiettare queste stronzate. Allora, è molto scarna, in basso, comunque lo vedete che in basso c'è un calendario, il calendario che dicevo prima, prima di venire via di corsa, decenando la pioggia, l'ho stampato. Allora, la prima cosa c'è scritto, insegnare a prendere in mutare, adesso è quello squinternale stamani, per le declinazioni didattiche nella scuola di blog, poi c'è scritto, con tutti i link, questo, iscrizioni primavera 2009 per tutti gli studenti, quindi anche voi. Mi piace il sistema anglosassone, loro hanno Fall 2008, Spring, sto richiamo alla natura, mi piace, non so, semestre, primo semestre, la burocrazia che ci sta ammazzando, il corso della primavera, più bello. Iscrizione primavera 2009, che succede? Se io ci clicco viene una pacinina con un altro link, c'è due bischeratine, mi sono sentito dover dire, quattro righe. Quando cliccate lì, modulo di iscrizione, si apre, clac, internet, un modulo di iscrizione. Nome, cognome, numero di matricola, indirizzo di email, che se c'è uno che ha un problema lo scrivo, oh ciccio, guarda che cosa è. E dove finisce questo modulo? Io ho aperto Google, offre dei servizi, per esempio fogli di lavoro, che stanno in internet, non c'ho bisogno di, sì, posso scaricare la versione, ci posso, se vuole la libreria Martelli, mi attacco a un computer, lo vedo, l'iPhone, qualsiasi cosa, e poi ci posso associare un modulo che mi posso confezionare. Quando voi riempite quel modulo, a me si riempie una riga, quindi se Vinco Pallino di Poggi Ponzi, cognome di Poggi Ponzi, nome Vinco Pallino, cognome di Poggi Ponzi, numero di matricola 314 314 159 su allora poi riempie e io mi trovo tutta la riga riempita e quello è il mio tabulato e lì poi ci innesto i punteggi, quindi facilissimo, semplice. Di cosa si chiede? Si è detto l'email, poi c'è tutto, c'è indirizzo PUC. Benissimo ragazzi. E il blog, ecco, allora, voi dovete, prima di fare questa iscrizione, parlo piano perché è la parte da sapere, cioè andare via con questa cosa nel capino, bene? Per qui. Allora, il modulo, ma ancora non lo toccate. Poi, sotto c'è un altro link, istruzioni per iniziare, lì. Io questo semestre ho tre categorie di studenti, voi, quelli di un master di medicine e una classe di professori di un'università telematica dove le insegno, proviamo a imparare insieme tecnologie. E allora lì ci sono le istruzioni, voi seguite, voi siete studenti della facoltà di medicina, anche per gli infermieri, studenti infermieristica sono le stesse, e c'è scritto cosa potete fare, c'è riassunto di quello che vi ho detto. E c'è scritto, ora prima di tutto studiate questa pagina, che è una delle pagine wiki, è intitolata Social Networking. Quella è l'unica cosa che vi dico ragazzi, studiatela. Cioè, che vuol dire studiare? Non vi dimmi la memoria perché vi rincorro, ma dovete leggerla capendo cosa diavolo c'è scritto. E andando a vedere link e capendo cosa diavolo c'è, è piena di filmati YouTube, leggerli per capire che dicono. Perché i filmati YouTube che non passano attraverso le aule informatizzate degli istituti formativi italiani sono uno strumento didattico strepitoso per spiegare nocciolini, bischeratini, tipo come uso feed RSS. Tac, un video YouTube strepitoso, lo guardo un minuto, ho capito, lo faccio subito. È pieno di video del genere. Guardate e fate quelli, lì c'è l'invito, dice il blog, e questo e quest'altro, 60 milioni è da aggiornare. In realtà sono di più, sono raddoppiati, diciamo, e poi c'è il link a due blog, Blogger, il sistema blog di Google, che è blogspot.com, o WordPress. Sono i blog che io preferisco. Ora, fra di voi ci sono delle persone che hanno un blog. Se avete un blog in Splinter, o il mio blog, Luigi, credo, vabbè, se dovete andare dall'analista per lasciare il vostro blog, io non voglio sudoro, non c'è nessuno, scusate, è vero. Se avete quello di LiveSpace di Microsoft, ragazzi è chiuso, cioè se uno lo deve vedere deve farsi un account. Le cose chiuse non sono il futuro, ragazzi, il futuro è all'aperto. Questo è il messaggio fondamentale di questa, di questo straccetto di corso. Quindi va bene, se proprio dovete andare dallo psichiatra, se mollate il vostro blog LiveSpace, usiamolo, ma è meglio usarne uno aperto. Per me è più semplice perché li gestisco meglio. Se gli aprite Xnovo, per favore fate Blogger o WordPress. Le differenze le imparate dopo, ora non perdiamoci tempo. Bene, quando avete letto questo capello, sarete pronti per decidere il vostro destino in questo corso. Quale opzione è la mia opzione? E allora voi vi iscrivete nel modulo. Se avete scelto il percorso del blog, nel campo del blog ci scrivete l'indirizzo del blog perché io lo devo incorporare nei miei feed RSS. Se vi iscrivete e non c'è l'indirizzo del blog, vuol dire che quella persona io me la vedrò apparire prima o poi o a fare il quiz o a farmi una proposta del tipo voglio partecipare a MedWiki, ho questa idea in mente, ho un'idea che rivoluzionerà il mondo. Ecco, vuol dire che uno di questi, a me basta questo, è automatico. Poi dopo c'è una serie di domande, un sondaggio. Questo è il primo favore che vi chiedo, è obbligatorio se no non fate il corso, comunque grazie. È un sondaggio perché io uno dei punti più importanti di tutti i corsi è sempre stato, dal 2001 ora, l'opinione degli studenti. Cioè, se i miei corsi hanno preso questa piega è perché io all'inizio chiedo delle cose e dopo chiedo che ve ne pare. Questo per me è un timone che mi fa capire qual è la direzione da prendere. Quindi questo è uno dei vostri contributi. Siete attivi, mi dovete insegnare quali sono le vostre esigenze, perché non si può fare un insegnamento serio senza sapere quali sono le esigenze della popolazione alla quale ci si rivolge. Quindi dovete fare questo questionario. Lo spedite, a me arrivano. A quel punto voi dovete successivamente imparare a usare, io vi direi, chi usa altri sistemi già per conto suo di gestione dei feed RSS, che continui, basta che li veda, non frega niente a me. Chi comincia ex novo, è più semplice per tutti se usate il servizio gratuito di Google Reader. Ci avete l'imboccatura lì, aiutatevi, dovete imparare a usare il feed RSS nel servizio di aggregatore di feed, si chiama così. Esistono anche dei software scaricabili, fate quello che volete. Se proprio volete sapere l'opinione mia, cominciate a usare quello. Io ho cominciato così, devo dire, da 6 anni uso quello, c'ho dentro, non so, 800 riguardo, li seguo, ma altri saranno 1500 feed, mi trovo bene. E imparate a fare quello. In questo tempo già avrete trovato dei post nel mio blog, quindi comincerete ad avere delle prime dritte, e comunque io sono l'Allenlauer. Ecco, di sicuro ho dimenticato qualcosa, perché non mi è mai successo di parlare senza cosa, ma di sicuro la sostanza c'è, quindi io potrei cessare qui e darvi appuntamento domani alle 10:30 per parlare di cosa è la collaborazione in internet oggi per l'economia, il lavoro, la vita e cosa è networking per noi. Magari la troverà banalissima. Il 2.0 sostanzialmente che cos'è? C'è scritto. Ah, ok, allora me la trovo lì. Tu leggi quello, c'è una pagina apposta. Ho scritto recentemente un articolo di 60 pagine. Ok.